cielo, ya le mio dai ni me que ti nasce mela. You're beautiful and you're bomb like Tara. Yeah, work your body, body, feel me tempo.